342. Carne alla genovese. Prendete una braciuola magra di vitella del peso di grammi 300 a 400, battetela e spianatela bene, frullate 3 o 4 uova, conditele con sale e pepe, un pizzico di parmigiano, alquanto prezzemolo tritato e friggetele nel burro in forma di frittata della larghezza approssimativa della bracciuola su cui la distenderete, ritagliandola dove sopravanza e collocando i ritagli dove essa è mancante. Fatto questo, arrocchiate la bracciuola insieme con la frittata, ben stretta, e legatela, indi infarinatela e mettetela in una cazzaruola con burro, condendola con sale e pepe. Quando sarà ben rosolata da tutte le parti, bagnatela con brodo per finire di cuocerla e servitela col suo sugo, che a motivo della farina riuscirà alquanto denso.